544. Pollo alla Rudinì. Questo pollo, battezzato non si sa perché con tal nome, riesce un piatto semplice, sano e di sapore delicato, perciò lo descrivo. Prendete un pollastro giovane, levategli il collo, le punte delle ali e le zampe, tagliatele a due dita dal ginocchio. Poi fatene 6 pezzi, 2 con le ali a ciascuna delle quali lascerete unita la metà del petto, 2 con le cosce, compresavi l'anca, e 2 col groppone tolta nella parte anteriore. Levate le ossa dalle anche e la forcella del petto, i 2 pezzi del groppone schiacciateli. Frullate un uovo con acqua, quanta ne stia in un mezzo guscio d'uovo. Metteteci in infusione il pollo dopo averlo infarinato e conditelo col pepe e col sale a buona misura, lasciandovelo fino al momento di cuocerlo. Allora prendete i pezzi a uno per uno, panateli e messa la sauté o una teglia di rame al fuoco con 100 grammi di burro, cuoceteli in questa maniera. Quando comincia a soffriggere il burro, collocateci per un momento i pezzi del pollo dalla parte della pelle, poi rivoltateli, coprite la sauté con un coperchio e con molto fuoco sopra e poco sotto lasciateli grillettare per circa 10 minuti. Servitelo con spicchi di limone e sentirete che sarà buono tanto caldo che freddo. Per parlare un linguaggio da tutti compreso, la Sacra Scrittura dice che Giosuè fermò il sole e non la terra, e noi si fa lo stesso quando si parla di polli, perché l'anca dovrebbe sì chiamar coscia, la coscia gamba e la gamba tarso. Infatti l'anca ha un osso solo che corrisponde al femore degli uomini. La coscia ne ha 2 che corrispondono alla tibia e alla fibula, e la zampa rappresenta il primo osso del piede, cioè il tarso. Così le ali, per la conformità delle ossa, corrispondono alle braccia, che dalla spalla al gomito sono di un sol pezzo, omero, e di 2 pezzi, radio e ulna, nell'avambraccio. Le punte delle ali, poi, sono i primi accenni di una mano in via di formazione. Pare, e se è vero potete accertarvene alla prova, che il pollo cotto appena ucciso sia più tenero che quando è sopraggiunta la rigidità cadaverica.